I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. La Fed, cioè la banca centrale americana, mercoledì sera ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base, portando il costo del denaro in un range compreso tra lo 0,5 e lo 0,75%. Era importante ieri vedere come i mercati avrebbero reagito a questa mossa, sapendo però che il rialzo era in qualche modo atteso e quindi già metabolizzato. Quello che invece non era atteso è il fatto che la Fed per il 2017 intende alzare i tassi altre 3 volte e non 2 volte come ci si aspettava. Questa in effetti è stata una sorpresa che si è subito vista in molti ambiti. Per prima cosa il rendimento dei titoli di Stato americani a 10 anni, che è balzato dal 2,5 al 2,6%, ancor più evidenti le conseguenze sul mercato delle valute. Il dollar index, che confronta l'andamento della valuta americana con le altre 6 più importanti divise globali, è balzato ai massimi da 13 anni. Per restare a casa nostra, il cambio euro-dollaro è sceso ieri ampiamente sotto quota 1,04, il livello più basso degli ultimi 14 anni, e con la parità che ormai sembra essere davvero a portata di mano. Infine va detto che il rafforzamento del dollaro sta indebolendo l'oro, che ieri è sceso di quasi l'1%, ma negli ultimi 2 mesi ha perso quasi il 20%, neutralizzando buona parte del guadagno che aveva messo a segno da inizio anno. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Il governo correrà ai ripari sulle distorsioni legate ai voucher. Sono i buoni da 10 euro lordi, 2,5 finiscono all'INPS, che sono stati inventati per dare una veste formale ai lavori marginali legati alla stagionalità o a impieghi spot che fino ad allora restavano sostanzialmente in nero. Ma sono letteralmente esplosi e dal 2008 fino allo scorso settembre ne sono stati utilizzati 387 milioni per un valore di poco inferiore ai 4 miliardi di euro. È uno dei temi oggetto dei quesiti proposti nel referendum per il quale ha raccolto le firme la CGIL, che saranno esaminati l'11 gennaio dalla Corte Costituzionale. Il governo non sembra intenzionato a ricorrere a un decreto, ma a utilizzare un disegno di legge già incardinato alla Camera, il cosiddetto Jobs Act per il lavoro autonomo. In quel testo in effetti non sarebbe difficile introdurre alcune misure restrittive, limitando molto il raggio d'azione di questi buoni. Già un precedente decreto aveva imposto regole più severe per la tracciabilità dei voucher. Ora il governo punta su un aumento delle ispezioni e su una limitazione delle possibilità di uso di questa forma di remunerazione. Quanto alle ispezioni, finora è emerso che le prestazioni di lavoratori che nei 3 mesi precedenti avevano già avuto un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con lo stesso datore interessavano il 7,9% dei lavoratori, percentuale che però sale al 10% se si considerano i 6 mesi precedenti l'ingaggio con il voucher. I settori più interessati sono il turismo e il commercio. Per evitare abusi, d'ora in poi il voucher dovrebbe essere limitato a lavoretti come quelli domestici, di giardinaggio o di consegna porta a porta, oltre a quelli legati naturalmente alle campagne di lavoro agricolo. È chiaro che questo è il tema più semplice tra quelli toccati dal referendum prossimo venturo, e il più delicato resta quello sull'articolo 18, e su questo il governo non sa ancora che pesci prendere e aspetta il verdetto di ammissibilità della Consulta. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it.